Buonasera e benvenuti a Nottetempo 7 Minutes, sono Livia Napolitano, 7 minuti in compagnia delle più interessanti realtà musicali indipendenti che questa sera ci faranno scoprire un talento davvero speciale, quello di Catherine Corelli, un'eclettica e affascinante compositrice nata in Russia da padre italiano e madre sovietica. La sua musica è un mix di stili che spaziano dal metal, dalla musica elettronica, all'AC. Anche la tecnica vocale che utilizza nel canto dei suoi pezzi è una originale commistione di stili e di influenze culturali. Vi lascio quindi all'ascolto di Catherine Corelli con Sold Out. Vi ricordo che anche la musica di Catherine Corelli è liberamente fruibile e condivisibile. La trovate in rete sui vari indirizzi di musica indipendente, nonché sul suo sito personale e sui social network. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana su Radio Libriamoci Web, la radio libera e indipendente.